as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui, siamo al pane e le rose, ennesima puntata di quest'anno, e in questa puntata del pane e le rose noi parleremo di un contratto, di una fabbrica di Correggio ad Emilia che si chiamava la Corgir, adesso si chiama Nexus, fa parte del gruppo Nexus, loro fanno tutte attrezzature che servono per ai gommisti, per quanto riguarda la sistemazione delle gomme e tutto il resto. È un'azienda importante, insomma, molto, un'azienda storica della zona di Reggio Emilia. L'ho intervistato questo delegato, Marco Sternieri, perché ero incuriosito, avendo saputo che la vertenza si era conclusa in maniera positiva, ero curiosissimo di ascoltarlo. Avevo seguito la vicenda della ex Corgi sulle pagine Facebook della FIOM di Reggio Emilia e anche la FIOM nazionale, un'avvertenza importante. Adesso ci sentiamo un pezzo dei Nao, Venceremos, questa canzone è adattissima all'avvertenza perché i compagni hanno vinto, sono riusciti a conquistare un contratto interno con tantissimo di sciopero. Sentiremo dalla sua voce di Marco e Ciri, racconterà tutto. Ci vediamo, ciao. Allora, salve a tutti, siamo qui al congresso nazionale della FIOM e ho incontrato un delegato FIOM di Reggio Emilia, Sternieri Marco, della ex Corghi, no? Adesso Nexion, gruppo Nexion. Gruppo Nexion. Lo voglio intervistare perché una vertenza che io leggevo spesso, la FIOM pubblicizzava parecchio la vostra vertenza, è stata una vertenza importante. Vorrei che tu ci raccontassi cosa è successo nella tua fabbrica e com'è andata. Allora, com'è andata? È andata bene, certo, prima di tutto. Ecco che intervista, una delle ragioni. Esatto. Ogni tanto una delle poche vertenze, anzi no, le nostre vertenze sono sempre state molto, come si dice, movimentate, discusse, trovati sempre degli accordi e condivisi con, come poi del nostro stile in FIOM, votato e via dicendo. Però questa ultima vertenza qua, dopo 3 anni di fatturati veramente record del gruppo Nexion, l'azienda ci ha portato in una strada in cui dovevamo fare una scelta. Ci aveva offerto un accordo ponte in cui veniva allungato e bloccato un premio che veniva portato alla fine vertenza del 31/12/2024, venivano esclusi gli interinali su i benefit che l'azienda aveva proposto nell'accordo ponte, al che siamo andati in assemblea di 3 stabilimenti e abbiamo dovuto fare una scelta insieme ai lavoratori: o accettare l'accordo ponte, che era veramente una cosa discriminatoria, perché anche chi è interinale e somministrato ha dato il suo per l'azienda e per raggiungere i risultati che hanno avuto negli anni e anche e soprattutto in piena pandemia. E in quelle assemblee lì abbiamo dovuto fare una scelta: se o accettare l'accordo ponte, come ti dicevo prima, o chiedere un contratto, dicendo proprio alla gente ed essendo proprio chiari che sarà una vertenza dura, veramente dura. E in quella vertenza lì abbiamo deciso, tramite un referendum certificato, di scegliere il contratto integrativo. Cioè, noi vogliamo un contratto integrativo. Abbiamo proclamato 60 ore di sciopero in primo giro, siamo partiti tra virgolette leggeri, nel senso che abbiamo rispettato le normative, purtroppo, del decreto sicurezza, perciò almeno uno stacco di una mezz'ora tra uno sciopero e l'altro. Non siamo partiti subito con le mezz'ore perché dovevamo sentire bene a modo l'ufficio giuridico della FIOM se ci dava la possibilità, perciò sentivamo le varie, come si dice, denunce fatte, se potevamo o non potevamo spingersi fino alle mezz'ore. La gente ha partecipato, ha cominciato a uscire, ci ha chiesto di spingere ancora di più, perciò siamo andati verso le mezz'ore. Le mezz'ore veramente sono state dure, perché era mezz'ora dentro, mezz'ora fuori, facevamo due... Ma efficaci però? Molto efficaci, perché abbiamo gestito bene la partita, perché tranquillità, siamo riusciti a tenere le fila, abbiamo fatto le scelte giuste, soprattutto condivise. L'azienda secondo noi ha fatto degli errori mandando fuori comunicati nei momenti sbagliati in cui cercava di dividerci, invece ci univa, e quelle mezz'ore lì ci hanno unito, ma molto, perché ogni giorno che passava si aggiungeva sempre qualcheduno. Siamo riusciti a bloccare veramente il cuore dell'azienda, del gruppo, perché abbiamo uno stabilimento che fa proprio metalmeccanica, proprio dalla lamiera, il pezzo finito, non usciva materiale, tutto il materiale che arrivava in sede centrale e non solo veniva bloccato. Che cosa producete? Che molti non... Noi siamo legati all'automotive e facciamo smontagomme, cioè siamo tutte attrezzature collegate alla ruota. Ok. Perciò equilibratrici, assetti, smontagomme camion. E siamo riusciti a mantenere soprattutto la gente attenta sulla problematica, sempre nella riga, nonostante ci sono stati momenti di difficoltà, E gli interinali come hanno agito? Gli interinali purtroppo non si sono aggregati, lo si capisce, certo. Non lo si condivide. Chiaro. Ma lo si capisce. Che loro erano parte in causa di questo. Loro dovevano, non dico essere i primi, perché però dopo come si era comportata l'azienda, almeno un po' arrabbiarsi per tirare fuori la loro voce, perché anche loro stavano contribuendo a questi fatturati. Certo. Veramente. Era giusto anche loro prendessero il premio di risultato. Assolutamente, no, i benefit. I benefit. Erano tagliati fuori dai benefit. Sì, sì, sì, dai benefit. E oltretutto il premio di risultato, come hai fatto bene a ricordarmelo, veniva solo elargito chi aveva almeno 3 mesi di anzianità, okay, di lavoro continuativo in azienda, perciò era proprio una corda ponte. Perché mi immaginavo, perché spesso fanno così, sì. non gli danno nemmeno il premio di risultato, sì, all'inizio. Si è conclusa in Confindustria veramente con tensione, perché siamo riusciti a trovare un accordo e strappare. Ma avete fatto altre ore di sciopero? Mi sembra che fino a 100, dopo io ho letto 100 ore. Abbiamo fatto la se prima, non mi sbaglio. Le prime 60 ore abbiamo concordato con i ragazzi, dopodiché, arrivati alle 60 ore, abbiamo dovuto dire: qua c'è una scelta. Stiamo cercando di avere un incontro in Confindustria, però non ci possiamo fermare, perché soprattutto non ci vogliamo fermare. Sapevamo benissimo che anche se l'azienda avesse dato uno spiraglio di un tavolo di trattativa, che non si sapeva come andava a finire, la gente non si voleva fermare, perciò dalle 60 abbiamo dovuto mettercene altre 40, certo. E la gente ha detto: finché ci siamo andiamo. Resistere un minuto in più del padrone? Assolutamente sì, e siamo riusciti a resistere un minuto in più del padrone, nonostante che in Confindustria c'è stato dei momenti duri, perché si è rotto più di una volta il tavolo di trattativa, ma la gente, più l'azienda diceva di no e più si incazzava, tanto che verso la fine delle 104 ore si sono anche cominciati a aggregare anche degli impiegati con i rimorsi, proprio ce l'hanno detto. Certo, noi quando voi venivate sotto agli uffici con la vostra cassa, con la vostra musica, perché siamo riusciti veramente a creare le condizioni, tutti. Le condizioni giuste, anzi, se ti dimenticavi una volta di fischiare, c'era l'officina che ti diceva: oh, allora sono già le 10. Certo. Cioè, proprio aspettavano quel momento per andare fuori, per parlare, condividere le sensazioni, ascoltare la musica poi, e notizie. Noi siamo stati bravissimi a dare tante notizie su quello che succedeva, su quello che ci arrivava dagli altri stabilimenti, perché siamo riusciti a tenere uniti 3 stabilimenti. In Confindustria c'è stata un po' di tensione e la gente, anzi, ha detto: se c'è da andare oltre, andiamo oltre. Poi siamo stati bravi come delegazione e con il nostro ex funzionario, che ad oggi è passato in segreteria FIOM e CGL, siamo riusciti a strappare questo contratto che, a nostro avviso, è molto buono. Alla fine cosa avete ottenuto? Allora, abbiamo ottenuto i nostri 2 premi con un incremento, arrivare al 2000, abbiamo intanto preso un anno in più di contratto che non l'abbiamo buttato via, perché quando, cioè, l'azienda ci ha, nella prima ristretta ci ha offerto 4 anni di contratto invece che 3, l'abbiamo portata a casa subito. In più siamo riusciti a aumentare il premio di presenza, che noi lo chiamiamo tempi vita lavoro, efficienza impianti, abbiamo questi 2 premi. Spieghi come funziona il premio di presenza, perché è una cosa di cui stai discutendo parecchio. Allora, il premio efficienza impianti è un premio individuale in, sì, cui vengono esclusi certe causali di non presenza, perciò la malattia e via dicendo vengono scartati. E cosa invece, che riguarda nella cosa che invece pesa della non presenza? Le malattie. Ok, quella non è compresa. Non viene conteggiata. Conteggiata. E cosa che viene conteggiato? Conteggiate le ore effettive. Che tu lavori là. Invece, scusa la malattia, infortuni, immagino, malattia e infortunio. Che vanno nell'altro premio però. Ok, l'efficienza impianti. Presenza. Tempi vita lavoro. Tempi di vita lavoro, ok. Quelli vengono calcolate tutte, dalla 104. Ok, ho capito. Malattia, avete 2 premi, uno legato alla presenza effettiva senza la malattia, la 104 e tutto il resto. L'altro invece è un altro premio, ok, ho capito. perché questo premio qua lo puoi trasformare, come era già all'origine, in ferie, in permessi. Ah, ok. Perciò al momento delle, quando te lo danno in busta, 15 giorni prima l'azienda cosa fa? Ti dà un modulo in cui tu decidi se prendere i soldi che ti spettano o trasformarlo in permessi retribuiti. Questa è la cosa buona. Arriviamo a un premio che nei 4 anni alla scadenza del mandato, perciò dal 1 gennaio 2025, quel premio qua sommati arriva a 37 centesimi, adesso vado a memoria, sì, che diciamo per noi è una sedicesima, certo, perché tutti gli altri lotte che abbiamo fatto siamo riusciti ad arrivare già a una quindicesima tra il consolidamento e il premio del risultato, certo, l'anticipo certo. Abbiamo già la quindicesima, la quattordicesima l'abbiamo già presa negli anni 70. Il quattordicesimo premio preferiale, sì, sarebbe come noi. Premio Ferri, sì. Sì. Siamo, con questo premio qua siamo vicini a una sedicesima. Dentro a questa cosa qua siamo riusciti a, per questa volta, con gli impiegati a distribuire meglio le ferie. Anche gli impiegati hanno questi premi di presenza... No, e di efficienza impianti? No, arriva solo al quinto livello. Quinto, okay. Sì, quinto. Il quinto S in su no. Non c'è né il premio di presenza né il premio di efficienza solo impianti. Tempi vita lavoro. A tempi vita lavoro, perché esiste. L'efficienza impianti solo legato a chi lavora, realmente. No, scusi, che faccio queste perché no, a bene. Bologna abbiamo altre cose, quello che mi interessava capire. Siamo riusciti a aumentare la mensa, l'abbiamo portata da un 40% a carico dell'azienda a un 60%. Okay. Beh, abbiamo aumentato il buono scarpe, che erano anni che chiedevamo di aumentarlo, ma non tanto per avere la scarpa di moda, ma avere una platea di scarpe, una scelta migliore. E abbiamo aumentato i massimi del premio di risultato, che abbiamo portati fino alla scadenza contratto nell'ultimo anno 2000 euro e siamo passati da 750, arriveremo a 850 alla fine del contratto certi. Ok, ho capito. Molto, una battaglia. La cosa che mi interessa molto è stata proprio la vostra reazione che avete avuto, sì. È stata una reazione davvero lodevole. Dentro alle 104 ore siamo guardati in faccia come RSU e abbiamo detto qua dobbiamo cercare un aiuto. C'è stato un assessore che ad oggi è ministro, che è onorevole a Roma, che l'onorevole Malavasi di Correggio, che ha provato anche lei diplomaticamente a entrare nella famiglia, ma sai, ad oggi la Nexion è controllata al 40% da un fondo americano. Questo è il problema, no? Molto probabilmente è stato quello. Sì. Se vi ritiene troppo costosi, avete una 16 mensilità quasi. Sì, siamo diventati molto costosi, cioè era molto oneroso il premio, ma noi avevamo dalla nostra parte veramente 3 anni di lavoro. Avete prodotto? Abbiamo lavorato in parte. Fatturato, abbiamo fatto tanto. Straordinari. Lo so. Tanti straordinari. Come tanti, certamente. E ci siamo trovati a un punto che dovevamo cercare un aiuto per non sfondare le 60 ore, il primo pacchetto di sciopero, e abbiamo deciso di partire con una cassa di solidarietà. La risposta della popolazione, perché siamo andati, era proprio il momento della fiera di San Luca di Correggio, abbiamo allestito un banchetto per 2 giorni nel centro di Correggio e abbiamo avuto una risposta della cittadina. Sì, perché voi siete... Fate parte di quella casistica in cui c'è la cassa di solidarietà messa dalla Fiommere, dell'Emilia Romagna? No, abbiamo usato la nostra cassa di solidarietà, però nel senso che l'abbiamo aperta noi. Però potevate utilizzare quella che la Fiomma aveva aperto? Non l'avete chiesto, non avete avuto bisogno? È stata un'ottima idea questa qui. La popolazione ha risposto alla grande, tanto che siamo in rinnovo di RSU. Le nuove RSU avranno questo disonore, perché sarà un disonore di dover devolvere questi soldi, di distribuire questi soldi a chi ha fatto gli scioperi. Certo. E siamo veramente riusciti a coinvolgere le istituzioni, la cittadinanza ci è stata molto vicina, molto molto. Anche certi impiegati che non riuscivano a venire giù per i ruoli che avevano hanno contribuito tantissimo a questa cassa di resistenza. Adesso dovremo, come ti dicevo prima, trovare un momento in cui sarà un lavoro immenso per vedere cosa fare di questi soldi. Siamo riusciti ad arrivare a 5.000 euro di raccolta. Buono. E niente, alla fine del contratto siamo riusciti come RSU. Avete vinto? Abbiamo vinto e abbiamo festeggiato anche. Giusto. Perciò abbiamo creato, abbiamo fatto una cena di tutti e tre stabilimenti in cui ci siamo veramente rilassati con tutti i funzionari che hanno seguito, soprattutto la FIOM che ha seguito questa avvertenza ogni giorno, una volta al mattino, una volta al pomeriggio. Era sempre ai presidi dei tre stabilimenti, le altre organizzazioni non ne parliamo, parleranno i loro delegati. È chiaro. E niente. Ok. Ti ringrazio e sono contento di averti intervistato, perché ogni tanto parlare anche delle lotte che finiscono bene è una cosa importante. Lo voglio fare perché noi non parliamo solo di sfighe, di licenziamenti, chiusure, ma anche di quando i delegati e i lavoratori lottano e vincono. Grazie. Grazie a te. Ciao. Grazie. Orgoglioso de estar. Orgoglioso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la